Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È oggettivamente un'ondata di neve e di gelo eccezionale quella che ha colpito il nostro paese e sta tuttora infierendo. Basti pensare che ha messo in crisi persino un grande sindaco come Alemanno. Ma non è che il resto d'Europa se la passi poi tanto meglio da un punto di vista strettamente meteorologico. E allora perché altrove il calcio va avanti più o meno come se niente fosse? Il ministro degli esteri, degli affari esteri, Fabio Tavelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gigi. Ti leggo un pensierino dell'Equipe. Le flop de la semence, le flop flop de crapon sur les pelouses gelées. E dunque anche l'Equipe, L'Age de Glace, titola nella pagina dedicata al calcio della Ligue 1, perché i francesi per una volta possono essere accoppiati agli italiani in una gestione di una situazione che evidentemente è eccezionale, ma che eccezionale per noi e per i francesi meno per altri paesi, ad esempio anche a latitudini superiori come la Gran Bretagna o la Germania, non ha causato alcun rinvio in questi giorni, nemmeno in Spagna, però evidentemente le condizioni climatiche spagnole erano decisamente più favorevoli. Ecco, ma senza banalizzare ad ogni costo, ma ovviamente restando abbastanza sul generale, perché scendere nel dettaglio significherebbe dover dedicare ore a un argomento di questo genere, stadi innanzitutto immagino, ma oltre agli stadi e alle strutture, forse anche mentalità, forse anche organizzazione, che cosa? Due o tre cose. L'anno scorso l'Inghilterra fu squassata da una perturbazione che la mise realmente in ginocchio e qualche partita fu sospesa, fu rinviata. I motivi non furono mai però per impraticabilità di campo e non furono quasi mai, se non una volta sola, perché c'era veramente 5 cm di ghiaccio sulle tribune, ma fu sempre perché le condizioni esterne allo stadio, le condizioni di accesso potevano diventare problematiche. In alcuni casi, una volta, anche qui l'anno scorso, una partita non iniziò non perché ci potessero essere dei problemi, ma semplicemente perché era stato dichiarato da parte dei responsabili dell'ordine pubblico che forse era meglio tenere a casa un certo numero di persone per evitare che andassero ad intasare le vie d'accesso. Molti stadi inglesi sono ubicati nel centro della città, certo. Provate a immaginare a Londra quello che può succedere, spesso giocano in contemporanea. Certo, Londra è una città gigantesca, però quando giocano contemporaneamente Arsenal o Chelsea o Tottenham, diciamo che la cosa si può sentire. Oltretutto poi ci sono anche grandi squadre di tradizione, continuando a Londra ci sono una quindicina di stadi, quindi immaginate. Tutto questo vuole dire due cose. La prima è che essendo le squadre, soprattutto il campionato inglese ma anche tedesco, proprietarie degli impianti, la gestione complessiva degli impianti è pensata in modo da renderli sempre fruibili, perché ogni partita la società la vive in due modi, quella sul campo e quella sugli spalti. Quella sugli spalti significa che deve essere una giornata remunerativa, è come quando tu hai un negozio e deve entrare gente, se il negozio lo tieni chiuso la gente non entra e tu non incassi, e quindi la gestione complessiva è pensata perché l'investimento non sia soltanto nell'infrastruttura ma sia anche nella gestione. Sì. Questo anche qui in Italia la Juventus è l'unica che sia arrivata un pochino più avanti degli altri, ma tutta la gestione esterna, le vie d'accesso, la pulizia, le vie di fuga e tutto il resto, cioè tutto quello che serve per mettere in sicurezza una struttura, è appannaggio delle società che appunto da proprietarie vogliono che le persone arrivino allo stadio, stiano bene, spendano i loro soldi al pub dentro lo stadio, comprino i gadget dentro lo stadio e sostanzialmente trovino anche un posto, non dico riscaldato, ma un tantinello pulito, cosa che invece nelle strutture che sono comunali e quindi fatiscenti nella maggior parte dei casi in Italia sì, non succede. Ineccepibile tutto ciò. Senti, io oggi andrei un po' su tra pali e frasche. Ho visto domenica una delle più belle parate degli ultimi anni, credo, del portiere del Manchester United su quella punizione di Mata, mi pare che sì, fosse. Contestualizziamola, perché questa è stata una partita particolare. 3-0 Chelsea, 3 pari. Sì. Al 92esimo il Chelsea ha un calcio di punizione dai 25 metri, leggermente spostato sulla destra. Lo batte Mata, che è un giocatore dotato di un calcio veramente fantastico, vedasi anche il gol che ha segnato nel primo tempo. Mata disegna una traiettoria perfetta, perché la va a mettere nel set, De Gea che gli aveva dato molto spazio nella porta. Secondo me gliel'ha addirittura chiesta Lino, sì, in un certo senso, perché si è schiacciato molto sull'altro palo. Sì, si è messo sostanzialmente sull'altro palo, ha dato molto campo, come quando, non lo so, il tennista si sposta per giocare un dritto, sì, anomalo, esatto, o così. Esatto, perfetto. E la cosa vera è che Mata ha messo la palla nel set, quindi la palla sarebbe entrata, ma De Gea è arrivato con la mano destra, quindi non è andato con la sinistra, ma è andato con l'altra mano, con la mano destra, quindi la mano più lontana, e ha tirato giù le ragnatele da da quel set, e ha fatto una parata, secondo me, che vale non solo un gol, perché lo vale, è evidente, sì, ma perché ma vale... era da 9 la punizione, è stata da 10 la parata, sì, no? Sì, cioè, da 10 non ho dubbi. Adesso non ripeto, magari un allenatore di portieri può eccepire su qualcosa, ma io l'ho trovata strepitosa, ed sono stati bravissimi quelli della regia inglese a far vedere 3-4 replay, perché certo, trattasi di un gesto tecnico clamoroso. Oltretutto, a parte un portiere molto spesso criticato giustamente per degli errori che commetteva, e quindi, siccome stiamo parlando di un ragazzo dell'89, ci piace anche sottolineare la sua forza d'animo, oltre che la bravura tra i pali. Domenica pomeriggio, quindi, questo gesto tecnico, io direi davvero, davvero eccezionale. Ieri sera in Granada Malaga, un gesto antisportivo, cioè un fallo De Michelis o De Michelis, sì, osceno. L'espulsione, il fallo d'espulsione che si è meritato De Michelis ieri sera del Malaga contro un giocatore del Granada nel finale di partita, in pochi l'avranno visto ovviamente, insomma, adesso Granada-Malaga non è esattamente un match club, sì, si può farne a meno d'Europa, però se Ibrahimovic ha preso correttamente 3 giornate, questo una dozzina direi che basta, sì, la malapena, anche perché trattasi di abituale cliente dei taccuini degli arbitri. Sì, non che Ibra non lo sia, nel senso che il ricorso del Milan penso che sia su un modulo prestampato, no? Beh, tu ricorderai certamente l'espulsione di Firenze, nella quale poi la società, ma ripeto, siamo nel campo del legittimo, è ovvio, sì, che tutti si difendono, cioè anche un assassino che poi si prende 30 anni ha un avvocato difensore che cerca di fargliene prendere 29, questo certo, è normalissimo, però poi Ibra scrisse e la società dovette difendersi dicendo che lui aveva insultato non il guardarine, bensì stava parlando a se stesso, sì, e peccato che poi lui abbia scritto nel suo libro che nella sua memorabile biografia, ecco, certo. Ma io vorrei sottolineare anche un'altra cosa, che nel weekend ho visto un'espulsione a Sissé, l'ex giocatore della Lazio, sì, che può anche non risultare particolarmente simpatico, però è un giocatore che ha avuto una brutta reazione nei confronti di un altro che gli ha fatto un fallo veramente brutto e cattivo. Sì. Sissé si è rialzato, lo ha un po' preso per il collo, non ha fatto una cosa edificante. No. Però non dimentichiamoci che Sissé ha avuto 2 fratture pesanti, uh-huh, non sempre per interventi fallosi, però dobbiamo trovare una soluzione, perché Sissé è uscito dal campo, espulso e prenderà 3 giornate. L'altro è stato solo ammonito e giocherà, esatto, la prossima. Ed è secondo un killer. Me c'è troppa sproporzione. D'accordissimo. Meritava 3 giornate anche quello che ha fatto quell'entrata assassina, e che non ha preso Sissé perché Sissé è saltato all'ultimo istante. L'ha preso solo in parte. Salvando la caviglia. In che senso, grande sindaco Alemanno, domanda Andrea da Vigevano, tanti sindaci del nord hanno gestito bene situazioni ben più difficili. Andrea, sono passati una quarantina d'anni, credo, da un memorabile articolo di Indro Montanelli che scrisse la colpa è mia, riferito a un articolo precedente, perché quando si ironizza su qualcosa bisogna scriverci sopra ironia per essere ben sicuri, no, che la cosa venga capita. Se vuole la metto ancora un po' di più sulla strada. Io sono contrario alle Olimpiadi a Roma, che è un tema di cui si sta nettamente contrario, di cui si sta dibattendo in questi giorni, per una somma di ragioni di cui un giorno magari si parlerà, a meno che il comitato organizzatore, dopo queste ultime brillanti prove, non sia affidato ad Alemanno. Torniamo con Fabio Tavelli e questo import export emigranti di ritorno come Borini o questo Jacopo Sala nell'Amburgo. Tra l'altro sono 2 ragazzi scoperti da Jacomuzzi, che era un centravanti degli anni 70, che poi è diventato un tale scout. E siamo abbastanza alle solite, mi pare, però correggimi Fabio se sbaglio. Jacopo Sala emerge all'estero e viene, sì, rischiato all'estero. Borini no, viene finalmente lanciato in Italia un po' al buio, ma da allenatore straniero però. Sì, È curioso, però prendiamo il bello di tutto questo. Prendiamo il fatto che Jacopo Sala a 15 anni è andato a vivere a Londra e a provarci nella squadra giovanile del Chelsea. Felicità, ti interrompo solo un istante, dei ministri Cancellieri e Fornero, direi, no? Così, sì, così stiamo sull'attualità. È diventato uno spot. Ecco, certo. E per cui io credo che questo sia da un lato un bel segnale, cioè il fatto che ci siano dei quindicenni che poi, per carità, io non conosco la famiglia, non so che cosa ci sia, cioè ci sono famiglie che magari hanno più problemi a lasciare andare un ragazzino a Londra, ma in ogni caso lui, come fu per Kiko Makeda, come fu per molti giocatori, perché poi la verità è questa, Gigi, noi adesso parliamo di Jacopo Sala perché lui ce l'ha fatta, possiamo dire che ce l'ha fatta, poi farà carriera grande o piccola che sia, ma comunque ce l'ha fatta, sì. Però ci sono decine di giocatori che vanno, stanno lì un anno o un mese o due e poi tornano a casa, certo. Fanno comunque un'esperienza che è un'esperienza che io invidio, cioè io faccio un altro mestiere, però se a 22 anni io avessi avuto il coraggio e qualcuno mi avesse proposto di andare qualche mese, non so, a Los Angeles a lavorare per una rete americana, penso che avrei fatto una cosa interessante, intelligente e opportuna. Comunque, Jacopo Sala ha giocato nelle giovanili del Chelsea e poi ha avuto anche, secondo me, lì la fortuna, cioè quella che Frank Arnesen, ex grande giocatore della Danimarca, ha cambiato squadra, è andato via dal Chelsea ed è andato all'Amburgo e se l'è portato dietro. Se l'è portato dietro, lui al Chelsea non riusciva ad avere grande spazio, anche se era andato ad esempio in panchina l'ultima giornata di un anno nel quale il Chelsea ha vinto il titolo con Ancelotti alla guida. Ad Amburgo ha cominciato piano piano a conquistarsi il suo spazio, ha cominciato a esordire e ha giocato un paio di volte a partita in corso. La cosa curiosa è che venerdì sera l'abbiamo chiamato al telefono, anzi giovedì sera l'abbiamo chiamato al telefono per fargli in bocca al lupo, sapevamo che sarebbe stato titolare, il giorno dopo ha giocato contro il Bayern di Monaco, quindi non contro l'ultima, ecco, bravo, certo. E ha fatto gol, ha fatto un bel gol, un bel destro, un po' strozzato in diagonale, ma soprattutto, e poi ovviamente l'abbiamo richiamato la notte stessa della partita, la personalità nell'alzare la mano per farsi vedere da Guerrero, e cioè nel proporsi, che credo sia stata, al di là poi del gesto tecnico del gol, l'altra cosa interessante, cioè un ragazzo che non ha paura, non va a nascondersi, non aspetta la palla, ma fa capire che gliela devono passare e poi conclude così, sì, bene, quindi bella cosa. Il giovane di talento e di qualità è leggermente sfrontato, ovviamente senza esagerare, è certamente un valore aggiunto, sì, no? E sì, mi pare sì. Si possa dire questo anche per Borini, così sì, grande personalità da parte di Borini, oltretutto in una città complessa, in una città non facile, e tra l'altro vivendo, perché un conto è inserirsi in qualcosa che già funziona e che tutto sommato ti aiuta, ma vivendo comunque una certa concorrenza con giocatori importantissimi, se non a tratti fondamentali come Totti, parlo di trio d'attacco, con un giocatore come Lamela che si inserisce in un trio d'attacco ed ha una grandissima tecnica e c'è una grandissima aspettativa su di lui, con un giocatore come Bojan che viene dal Barcellona e ha giocato con Leo Messi e tutti pensano che possa diventare un grande giocatore, e insomma, se la Roma ha mollato Borriello e se la Roma ha fatto delle valutazioni tenendo e difendendo Borini, io credo che Borini se lo meriti, lo stia giustamente ripagando la Roma e dia la sensazione di essere un giocatore capace di esibirsi su questi livelli. Senti, hai citato il Bayern di Monaco, c'è una rivelazione di domenica di Uri Hoeneß, presidente del Bayern Monaco, che mi ha davvero fatto abbastanza sobbalzare, perché è inevitabile rapportarla all'Italia questa indiscrezione. Nel 2003, ha detto Hoeneß, prestammo 2 milioni di euro al Borussia di Dortmund che lottava per la sopravvivenza finanziaria, senza garanzie e senza interessi. Sembrava magari che, adesso non dico inventata, ma insomma magari un po' caricatella, invece l'amministratore delegato del Borussia del Dortmund ha detto è vero, posso confermare il prestito, e tra l'altro in passato si è scoperto che il Bayern aveva già aiutato con le stesse modalità sia i cugini del Monaco 1860 sia il St. Pauli. Riesce a trasferire in Italia qualcosa del genere? Ma magari direttamente no, però esistono queste cose, nel senso che tramite scambi di giocatori, tramite situazioni di agreement tra presidenti, ci sono delle corsie preferenziali, mettiamole così. Sì. È difficile prestare soldi da parte delle società di oggi perché sono tutte talmente indebitate che vorrei vedere dove li trovano. Diciamo che quella è una situazione comunque eccezionale. Però un bel gesto, no? Perché però, poi certo, questa cosa si viene a sapere a distanza di 9 anni. Io ma dico, ma, ecco, questa è la cosa bella, io credo. Che la sappiamo adesso, che ormai i protagonisti di quel fatto o non ci sono più, o comunque hanno ruoli marginali. Ecco, il timore di trovarselo sul giornale il giorno dopo può essere un deterrente discreto. Certo, senti, ultima davvero, sul supplemento dedicato al calcio internazionale del martedì della Gazzetta dello Sport, stamattina ho trovato una cosa che certamente farà schiattare dall'invidia Zamparini, Cellino e non solo loro. L'Atletico Madrid dall'86 a oggi ha cambiato 53 allenatori, 25 anni, 53 allenatori. Forse si spiega perché l'Atletico Madrid, al di là del problema di avere il Real già in casa, insomma, comunque fa un po' fatica a decollare. Comunque non è facile essere la seconda squadra di una città ed esserlo così nettamente, quindi forse ogni tanto i presidenti dei Colchoneros, spesso poi in passato tu ricorderai anche Jesus qualcuno Gil. Ecco, personaggi di un certo folklore, sì. Hanno provato a pescare nel mazzo, hanno provato a buttare la palla in aria, a vedere quello che succedeva. Effettivamente stupisce poco, sinceramente, questa cosa. Io credo che loro avessero un grande allenatore che era Quique Sánchez Flores qualche stagione fa, sì. E che poi si è incappato in una stagione sfortunata e non gli abbiano dato il tempo di esprimersi al meglio. Comunque, francamente, essere la seconda squadra di Madrid credo che sia più difficile che essere la seconda squadra di un'altra città. Non c'è dubbio su questo. Grazie Fabio. Grazie a te Gigi, buona giornata. Chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24 e sentiamo non la remissione dei peccati, però la confessione della colpa da parte di Ibrahimovic. Sì, mi hanno detto 3 giornate. Ho fatto una c***a, quello che ho fatto. Succede. Cosa devo fare? Devo imparare quando sbaglio, e sbagliato, e spero di imparare. Ho visto Nocerino in difficoltà e poi sono andato lì per aiutarlo. No, ho sbagliato e adesso sto pagando e tranquillo. Ho fiducia in mia squadra. Lo so che fanno anche bene senza di me. Devo scusare, ho scusato a tutti, e quando sbagli è così. Sì, non che accada così di rado, ripeto, a Ibrahimovic, no? È la terza sanzione grave, la terza squalifica per 3 giornate che becca in 1 anno e mezzo. Poi una volta gliene ha ridotte a 2, vedremo stavolta, ma insomma che becca in 1 anno e mezzo di Milan, sono oggettivamente tante. Non si può dire che dal punto di vista del comportamento, invecchiando, Ibrahimovic migliori. Però secondo Gagliani non c'è via, ed è il grande, l'ampio dibattito di questi giorni, e cioè era... Ma un dibattito che è iniziato una frazione di secondo dopo l'intemperanza di Ibra, e cioè era uno schiaffo, era un buffetto, era una carezza un po' sostenuta, era una sberla, era una sventola. Che cos'era esattamente? Sentiamo Gagliani. Si tratta di capire l'entità della cavolata, quindi secondo me, certamente, visto che la chiamiamo così e andiamo avanti con la cavolata, questa cavolata consiste in un comportamento antisportivo e non certamente in un atto violento, quindi nessuno contestava nulla. Io continuo a pensare e a credere che la squalifica giusta sarebbero state 2 giornate, che è quello che viene combinato per fatti di comportamento antisportivo e non violento, perché io non riesco a vedere violenza in quello che fa Ibrahimovic. Calcolando il potenziale di una sventola di Ibrahimovic, qualcosa di vero in queste parole c'è, però insomma è tutto molto da discutere. A proposito di fair play tra società, Roberto domanda: quando Abbiati venne prestato alla Juve in prestito gratuito per sostituire Buffon e Fortunato al trofeo Berlusconi, non potrebbe somigliare al gesto? Sì, direi di sì, direi che somiglia a quel gesto, anche se è di genere completamente diverso. Prima dei vostri interventi, e molti di voi sono già collegati per esprimere le loro opinioni, io ascolterei prima ancora un frammento tratto da un'intervista rilasciata ieri da Marcello Lippi a Radio Kiss Kiss, che ha fatto un discreto rumore. Sentiamo. Sono un estimatore di Walter, oltre che amico, ma devo dire con grande sincerità che sono un estimatore anche della società, perché questa società ha fatto delle cose veramente importanti. Ma io a 64 anni penso di essere pronto un pochino a tutto. Buona giornata a tutti, arrivederci. Cioè, non, Recentemente l'IPPI sembra aver aperto un po' un ufficio di autocollocamento, insomma, no? Perché non è la prima, però questa è una battuta. Poi è vero che lui a Napoli c'è già stato, anzi da lì, non è proprio partito da lì, ma quasi, ed è vero anche che il contesto era discretamente scherzoso, però intanto l'ha ammollata, perché non si sa mai. Enrico Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Niente, volevo andare leggermente, so che lei magari non sarà d'accordo con me, ma controcorrente, perché allora Ibra ha commesso certamente una stupidaggine, per l'amor di Dio, perché quelle cose lì generalmente non si fanno, però io, siccome ho 55 anni e lei è un po' più vecchio di me, mi ricordo molto bene gente come Boninsegna, Benetti, Rosato, che picchiavano molto più forte di lui. Enrico, la fermo un attimo, che picchiavano in azione di gioco. Qui stiamo parlando di gioco fermo da 30 secondi, lui non c'entra assolutamente nulla, arriva e si mette in mezzo a una mischia e mena, poi mena forte o mena adagio, questo è un altro discorso, mena adagio sicuro, perché se si mette a menare forte a Roniga non lo vedo benissimo. Quindi cosa c'entra che quegli altri picchiavano? C'entra, perché siccome io ho visto, come ripeto, ho 55 anni, sì, no, una volta questo l'ha visto detto. Ajax e Inter, e Boninsegna tirò un cazzottone a gioco fermo allo stopper dell'Ajax, un certo Ulshoff. Sì. E comunque, ecco, a gioco fermo. E andò fuori. Andò fuori, e prese due giornate, un cazzottone, no? Una manatina. Gente come Aronica sono provocatori da morire, il calcio ha bisogno, è chiaro, non devono fare stupidaggi, ma ha bisogno di gente come Ibrahimovic, come Zidane, no, di gente come Aronica e come Materazzi, che magari provocano per 90 minuti. Su questo, e allora uno da ultimo, io su questo la seguo, però a quei livelli di professionismo, e se vuole in questo caso ci metterei anche i 9 milioni di euro netti l'anno, se parliamo di Ibrahimovic, beh, insomma, io dico che l'autocontrollo, soprattutto a 30 anni, te lo devi essere creato, no? Anche perché poi esiste sempre la possibilità ulteriore, no? Come si faceva una volta, come si faceva fuori anche dagli oratori dei nostri tempi, visto che lei ha sottolineato più di una volta la sua età, si faceva fra gli oratori o dai campi di gioco e si diceva ci vediamo magari lì un attimo fuori, no? Da cosa, no? Questo è sempre esistito, magari esiste ancora, non lo so, io sono assolutamente un non violento, però insomma, capirà che questa potrebbe essere eventualmente una soluzione, ma in campo non esistono attenuanti per comportamenti di questo genere, e basta, i provocatori ci sono, e come, andrebbero combattuti di più, su questo sono d'accordo, ma non dagli Ibrahimovic però, e non dalle testate alla Zidane, ma combattuti in un'altra maniera, studiamo insieme quale. Lorenzo Firenze, buongiorno. Sì, sono di Firenze anch'io, ho ascoltato l'intervento adesso del mio concittadino e più o meno ero sulla stessa linea, nel senso che sì, riconosco che un giocatore, come ha detto lei, che gioca ad altissimi livelli e guadagna i soldi che guadagna, dovrebbe tenere a freno certi comportamenti, ed è giusto che sia stato punito per quello che è stato punito, ma volevo dire che, insomma, il fatto che si sia scusato e abbia ammesso le sue colpe come le ha ammesse, gli restituisce qualche punto. Ma chi lo dice? Ma non sarà troppo facile. Ma non sarà troppo facile, Lorenzo. Ma questo, scusi, questo l'altro anno ha insultato come un cane un guardalina, è uscito dal campo e ha detto che non ha detto assolutamente niente, poi a distanza di mesi ha scritto in questo suo libro, che qualcuno gli ha scritto, perché poi comunque ha scritto in questo suo libro che invece era vero, che il guardalino l'aveva insultato, ma siamo sicuri che tutto questo basti a riabilitare, cioè che il fatto che uno a distanza di 2 giorni, perché piglia il trofeo lì di striscia la cosa, questo, una battuta lì o un pentimento lì sia legittimi che cosa? Il fatto che è già riqualificato, uno così recidivo. Ma niente, però allora, diciamo, restituisce che uno cosa? Può sbagliare, cioè uno in campo può sbagliare, lui ha sbagliato e il giusto, la giusta punizione è quella che gli hanno dato, sono tre giornate. Fantastico, basta, no? Le sembra, cioè tutto il resto è aria ai denti che stiamo dando, secondo me. Ha sbagliato, finito, la prossima volta non sbaglierà più, poi la prossima volta non sbaglierà più, magari detto di un altro può essere più credibile che non di un recidivo come Ibrahimovic, ma questi sono eventualmente anche questi processi alle intenzioni. Io so, trovo che tutto sia un pochino più semplice. L'ansa meteo di Milano sta un po' ridimensionando il giro di domani sera, perché fino a ieri Milan-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia, domani sera a San Siro 20:45 si giocava tra i meno 7 e i meno 8, adesso si gioca a meno 3 secondo le previsioni aggiornate, e quindi già questo, oddio, non che sia un clima ideale per il gioco del calcio, però insomma, indubbiamente a meno 3 l'infame campo di San Siro sarà certamente più praticabile che non a meno 8. Ernesto, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Ascolti, io sono un tifoso milanista. Sì. Io spero a Ibra, dopo questo ricorso, che gliene aggiungano una di giornata, non che gliela tolgano. Non per il gesto, perché il gesto non mi sembra così cattivo, ma per il fatto che c'è reiterazione, e da che mondo è mondo, quando uno compie una cosa e poi la ricompie, è logico che le sanzioni di solito vengono raddoppiate. Però mi ha dato fastidio il fatto che non si parli di quello che ha fatto Aronica, cioè, perché Aronica, secondo me, prima ha cercato di dare la gomitata a Nocerino, ma non gliel'ha data. Ma okay. Non gliel'ha data, poi . L'ha preso per i capelli, giusto, e una volta l'ha preso per i capelli, e alla fine no. Vabbè, secondo me, io dico, mi sembra una mezza giustizia, nel senso, ok, quattro giornate a Ibra, ma anche a Ronica un paio, secondo me, si poteva dargli, anche perché dopo lui ha fatto il fallo di reazione, perché ha dato ancora uno schiaffo a Nocerino. Se mi parla del fatto che a Ronica doveva appoggiare l'altra guancia, sì, che prima abbia fatto queste cose gravi, no, l'ha probabilmente insultato, l'ha certamente provocato. Ma lei ha idea di che cosa succede, ed è sempre successo su un campo di gioco da un punto di vista dialettico verbale, ma le capita ogni tanto di sentire quando scappa un microfono aperto, no? Ci sono questi microfoni ambiente che secondo le pay TV danno, ma anche secondo la RAI a suo tempo, danno grande suggestione ambientale, sono quanto di più diseducativo se si possa piazzare su un campo di gara, insomma, perché insomma, è sempre stato così il calcio, è la stessa fatica agonistica che ti porta a trascendere, a dire le cose di cui di cui a partita finita, quando hai fatto la doccia, ti vergogni. Poi magari i Materazzi non se ne vergognano, anche le rivendicano, ma sono per l'appunto i Materazzi, no? E quindi questi evidentemente non li calcoliamo se facciamo dei ragionamenti globali e soprattutto civili. Salvo da Catania, buongiorno. Sì, buonasera dottore Garanzini. Dica. Due concetti molto semplici. Innanzitutto volevo dire questo: se magari alla squalifica venisse aggiunta, come una volta ne parlammo, venisse aggiunta un'ammenda, magari in base al proprio guadagno, sarebbe una cosa buona, perché è importante questo. Poi dico questo io: a me quello che dispiace è che gli arbitri a fine partita, perché mi dovessero spiegare perché non assegnano questo rigore, perché hanno espulso quello, almeno a noi saremmo più sereni, perché quando l'arbitro dice sai, io non ho dato il rigore perché non l'ho visto. Saremmo più, perché noi ci lamentiamo sempre. Ma di quello, scusi un attimo Salvo, ma lei ha bisogno di sentirsi dire, per esempio all'arbitro di domenica a Torino, facciamo questo esempio qua perché è quello più recente, lei davvero, se si sente dire dall'arbitro non ho dato rigore perché non l'ho visto, lei si sentirebbe più sereno? Ma secondo me è più sembrerei di più, perché capisco l'umanità anche quando parlano, perché uno si accorge. Ma invece, mi scusi Salvo, mi lasci continuare un istante solo, poi le lascio tutto il tempo che crede. Ma lei cosa dice? L'arbitro deve parlare perché si sentirebbe più sereno, ok. Secondo lei ci sarà, cosa potrebbe dire un arbitro? Non ho dato, guardi, io quel rigore non l'ho dato non perché non l'ho visto, l'ho visto benissimo. Il problema è che ho preso una paccata di soldi tali dal Siena e dal Monte dei Paschi, che in quel momento insomma, ho pensato ai soldi e sinceramente ho creduto fosse meglio non darlo perché non mi andava di restituirli. Lei pensa che possa accadere qualcosa del genere? No, penso di no, lì ha ragione, però a volte cioè, è una mia idea, perché magari sul rigore che non hanno dato a Roma al Milan, esempio, perché cosa ha visto prima? Cioè, appunto, il guardalinea e Maggiani dice, guardi, dato che c'era un bonifico in corso, no? che però ovviamente sarebbe stato effettuato soltanto a fine partita, nel caso in cui io fossi riuscito a far annullare un rigore al mio arbitro, che il mio arbitro D'Amato l'aveva già assegnato, lei capisce che con un bonifico di mezzo, questi tempi duri, il freddo, il gelo, c'è anche la verdura e la carne che aumentano per via dei trasporti, ho pensato bene di fare così. Io credo sì, potrebbe essere una buona idea. Un giorno o l'altro facciamoli parlare sti arbitri, che certamente dopo saremo più sereni tutti. Salvo, ho scherzato, ma non mi auguro che non se ne abbia male, era giusto davvero per scherzare. Nicola Filippone e un 7 febbraio. Sembra ieri. 7 febbraio 1999. Uno scatenato Hernán Crespo, autore di una tripletta, trascina il Parma di Malesani al successo per 4-2 sul campo della Juventus, nella 20ª giornata di campionato. A fine gara, Marcello Lippi annuncia clamorosamente: «Se il problema sono io, è meglio che mi faccia da parte». Il tecnico toscano lascia così Torino dopo 5 stagioni, in cui ha vinto, tra l'altro, 3 scudetti, una Coppa Campioni e un Intercontinentale. Al suo posto sulla panchina bianconera arriva Ancelotti. Lippi rientrerà alla Juventus nel 2001. Fu un episodio memorabile quello, perché Lippi disse: se il problema sono io, potrei anche farmi da parte. Io credo di ricordarla al condizionale, non è meglio che mi faccia da parte, come ha ricordato Nicola, ma insomma, che fosse al presente o al condizionale, la frase era ancora abbastanza nettamente dubitativa. Il problema è che Lippi non ha finito di pronunciare questa frase e di uscire dalla sala stampa, che entrò trionfalmente l'allora presidente e compianto avvocato Vittorino Chiusano, che disse grosso modo: sì, il problema è proprio Lippi, e quindi per il momento grazie della compagnia. A proposito dell'ampio dibattito di oggi su Ibrahimovic e dintorni, sentiamo un'opinione magari un po' diversa, che è quella di Gabriele Romagnoli stamane su Repubblica, che scrive: schiaffo buffetto, 3 giornate, 2, i milanisti insorgono difendendo il proprio totem, esattamente come avrebbero fatto 4 anni fa gli interisti, che ora osservano disgustati invocando una punizione esemplare. Quando Ibra giocherà nel Real Madrid e magari pesterà Thiago Silva in Champions, sarà tornato per tutta Milano quello che è stato finora per la metà, salvo quando giocava nella Juve, un nomade inaffidabile, per tradurre come la mamma di Carnage traduce Armando. È il destino del calciatore, con l'eccezione di un paio di romanisti. Quelli che ti adorano oggi ti odieranno domani. Armando da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo proprio chiederle una cosa su Ibra. Sì. Ma davvero pensa che sia peggio il fallo fatto da Ibra, quello schiaffetto, che poi siamo uomini non siamo ragazzini, no? Sì. È un poco più di un buffetto. Sì. Che certe entrate criminali che si vedono, che magari ti fanno finire all'altro la carriera, cosa pensa? Cioè, sarebbe meglio sorvolare su certe, anche se il gioco è fermo, però sorvolare su certe stupidate, penso. Sorvoliamo. E punire un po' di più quei falli cattivi voluti proprio per punire di più i falli cattivi voluti per farli male è una vecchia battaglia che mi trova assolutamente al suo fianco. Sorvolare invece, o considerare con molta bonarietà le cose di Ibrahimovic, significa educare educare le nuove generazioni alla legge del bullone. Il bullone sarebbe, secondo me, Ibrahimovic il bullone, perché è mezzo bullo e mezzo campione, no? Bullone. Anzi, per la verità, lui è un campione intero, ma è anche un bullo per intero. Tant'è vero che bullone io farei come per Mourinho, no? Cialtrone, si scrive cialtrone, si legge cialtruan, e io bullone farei per Ibrahimovic bullone e si legge bulluan, perché quando si comporta così è veramente il principe dei bulli. Ho cominciato con le letture dei giornali di oggi, andrei avanti con con Roberto Beccantini, che insomma, da qualche tempo, per fortuna, è tornato a scrivere, in questo caso sul Fatto Quotidiano, in particolare il martedì, un commento al campionato. E mi sono piaciute queste righe in particolare. Eccesso di gelo e di zero. Bisognerebbe fonderle, Juventus e Milan, per ricavare una squadra decente. La Juventus, priva di un Trezeguet che le sturi l'area, ha bisogno di spazi e dunque si esalta con le grandi. Il Milan, che ha costruito attorno a Ibra il poco gioco che consuma, asfalta le piccole. E questa mi sembra, no, in poche righe proprio un ritratto. E poi, a proposito di Juventus in dettaglio, scrive: ora che il dai e vai di Marchisio è stato studiato e limitato, e se ripensate alle giocate più brillanti della prima fase di stagione, sono proprio i dai e vai di Marchisio, l'unico schema plausibile è rimasto il lancio tagliato di Pirlo all'X Diner. Oggettivamente non molto. Credo che se Roberto è tornato, la voglio riscrivere, con tutte le sciocchezzuole che sentiamo e leggiamo in giro anche da parte di grandi opinionisti illuminati o presunti tali, io credo che il movimento calcio non abbia che da guadagnarne. Filippo, provincia di Udine, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Paragone ardito: se io perdo la pazienza con un mio collega e spezzo una matita dalla rabbia, rischio una lettera d'ammonizione e con tre sono licenziato. Vorrei spostare l'attenzione sull'atteggiamento di Galliani con questo, che minimizza un gesto di un suo, diciamo, dipendente, per semplicità, e lo rende una sciocchezza. E via, lo stile Milan, dove è finito? Grazie. Ma gli stili vanno e vengono, a seconda poi di chi ne sono, di chi ne è in quel momento l'interprete, o di chi. Stavo cercando altre letture, perché mi sembrava che fossero tutto sommato più istruttive, con tutto rispetto, per la sua opinione, ma dell'ampio dibattito su questa storia, che sinceramente mi sembra vagamente stucchevole. Per esempio ho letto da Giovanni Tarantino, che è un giovane bravo giornalista palermitano, tuttora in cerca di fortuna, ma prima o poi gli auguro davvero di trovarla, ho letto una battuta in un articolo che ha scritto ieri per oggi, a proposito della nostalgia per novantesimo minuto, no? Che io trovo non meno stucchevole di questo dibattito per Ibra, e un giorno o l'altro magari ne parliamo un pochino più diffusamente. E si domanda questo Giovanni Tarantino: ma tra vent'anni, per analogia, rimpiangeremo forse Massimo Mauro, e la sua memorabile battuta di domenica, che insomma cerco di evitare di citare per carità di patria? Boh. Insomma, io mi auguro sinceramente di no. Luca da Milano, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Intanto le faccio i complimenti per la trasmissione, perché in situazioni come la mia in ospedale mi tiene veramente molta compagnia, quindi la ringrazio di questo. E vorrei fare una domanda. Volevo sapere se secondo lei nella società Inter, ovviamente sono un tifoso interista, non manca una figura come Oriali, quella che poteva essere, diciamo, un link tra squadra e società, tra allenatore, società e squadra. Ecco, credo che per poter ripartire ormai l'anno prossimo. Luca, sono costretto a interromperla perché purtroppo il tempo è scaduto. Io credo che lei un gran torto non ce l'abbia, e credo che anche all'interno della società Inter, tolto ovviamente il personaggio cui Oriali darebbe giustamente ombra, credo che si stia facendo strada questa ipotesi. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Franco Piattanide in redazione, buon pomeriggio. A tempo di sport.